Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi so già che sarà una trasmissione sgradevole che contribuirà a scavare ancora più profondamente la fossa che già iniziai ieri a prepararmi. Ieri feci una trasmissione che consideravo innocente sull'uccisione del maiale, un mio ricordo fanciullesco, un romantico ritornare su climi, su sapori, su profumi, su usanze che fanno parte del nostro vivere quotidiano. Beh, non sono mai stato attaccato su Facebook, le persone mi incontravano, le telefonate, mi è stato dato addirittura del fascista, perché ho detto che in effetti ammazzare il maiale è un'operazione che dà gloria al maiale che risorge. Ho riflettuto molto su questo tema, io mi sento dare del fascista da quando sono nato praticamente, perché sono vissuto in una città in cui non essere allineato con una certa ideologia corrente, semplicemente farsi i fatti propri, già veniva considerati negli anni 70 una persona di estrema destra, quindi mi porto questo fardello sulle spalle molto volentieri, non mi importa nulla, anche perché poi quelli che negli anni sono sempre stati ideologicamente, politicamente schierati a destra, mi hanno sempre considerato come un pericolo comunista, quindi ero felice di questa ambiguità di non star bene a nessuno e quindi ogni giorno esprimo tranquillamente il mio parere senza necessità di dovermi riferire a una militanza, a un'appartenenza. Poi ho visto ieri sera un telegiornale in cui c'era una folla radunata nel quartiere Cinecittà di Roma che inneggiava alla liberazione, alla salvezza di Alessio Burtone di 20 anni, che è il ragazzo implicato in quella brutta storia di cronaca nera in una metropolitana romana che ha dato una spinta, un cazzotto, provocato, sputato, non si sa bene, insomma ha ammazzato una ragazza. C'erano delle folle che dicevano, chiedevano giustizia per questo ragazzo che veniva portato via dalle forze dell'ordine. C'erano tutti ragazzi che riconoscevo, tanti anni che li vedo da quando avevo 15 anni praticamente, con i giubbotti neri, i capelli corti, i saluti romani, che già proclamavano la loro appartenenza. Quella persona era dei loro, perché? Perché forse aveva dato un cazzotto, forse perché aveva risposto a una provocazione, forse perché semplicemente aveva reagito in maniera virile a una straniera che era uscita dal suo paese e l'aveva insultato e via dicendo. Beh, io sono molto combattuto questa mattina, però vorrei definire cosa è esattamente la figura del fascista, l'uomo di destra. Fascista non è più quello che ormai si mette i teschi addosso, anche se ancora esistono dei reflui, dei rimasugli, che tiene i discorsi del Duce nel cassetto, che tutti gli anni va a Predappi a fare il pellegrinaggio. Questo fa parte ormai di una sorta di nostalgia da guardare come reperto antropologico. Ho visto, conosciuto queste persone, vengo da una famiglia comunque che aveva fatto la Repubblica di Salò, quindi so benissimo di cosa si tratta, conosco le liturgie, posso tenerne con serenità le giuste distanze proprio perché le conosco. Non credo che oggi facciano più paura, spaventino più queste persone a nessuno. Uno dovrebbe in qualche maniera, se possibile, dialogarci, se no lasciarli vivere nel loro mondo di nostalgia e di ricordi e guardare oltre, vivere perfettamente, intensamente la propria contemporaneità. Beh, le persone che invece oggi vengono collocate a destra, che si scaldano, che alzano il dito, che danno del comunista ogni cosa che respiri, in realtà secondo me non ha nulla a che fare con quell'idea di destra che visione della vita, la psicologia, la sensibilità dell'uomo fascista ha sempre considerato. Quindi oggi, se possibile, vorrei cercare di capire assieme al pubblico, che può chiamare all'800 024 0024, cosa intendete voi oggi per fascista? Per me dare del fascista uno è come dargli, non so, del garibaldino o del papalino o del mazziniano, del cavuriano, è qualcosa come la storia ha seppellito, allontanato. Esiste un pericoloso atteggiamento di intolleranza, di incapacità di contaminazione culturale, che chiamerei in altra maniera, chiamerei rozzaggine, chiamerei chiusura, chiamerei incapacità di vivere la propria contemporaneità. Ma che cos'è ancora voi esattamente il fascista? Io vi do un piccolo aiuto. Vi dico quello che, secondo la mia personale storia, la mia generazione, viene considerato un modo di vedere la vita alla fascista. È una canzone che nacque negli anni 60, veniva cantata al Bagaglino, pensate che quanto è lontano da quello che oggi viene inteso per Bagaglino. La cantava Pino Caruso e mi sembra che le parole furono proprio di Pingitore. Ma ora che sono steso, guardate nel mio sacco, c'è solo una bottiglia e un'oncia di tabacco. Invano cedete soldi nella tasca pane, li ho spesi proprio tutti insieme alle puttane. Ecco, questo era il mondo di riferimento della destra italiana, che veniva fuori appunto dalla grande delusione del dopoguerra, in cui i genitori, i padri, gli zii, i reduci dividevano a seconda della parte in cui avevano militato la mancata vittoria. Da una parte erano i partigiani della zona emiliana che davano le loro armi a quelli che poi diventarono i brigatisti rossi, d'altra parte erano i reduci e gli ex combattenti che facevano la stessa cosa con figli, nipoti, ragazzi, reduci e via dicendo. La canzone del mercenario definisce quello che era lo spirito. Lo spirito era uno spirito ribelle, una voglia di combattimento, una voglia di esperienza eroica che, quando non si manifestava nelle piazze, negli scontri virulenti e feroci con gli avversari politici, che avevano altrettanta voglia di menare le mani e di continuare questa rivoluzione mancata, questa sorta di cambiamento abortito dell'assetto politico, facevano riferimento comunque alle possibilità che dava in quel momento che offriva il piatto di avere esperienze eroiche. In quel tempo erano la possibilità di andare a fare i mercenari nel Congo, nelle ex nelle colonie che si stavano appunto ribellando ai loro colonizzatori, e molte persone partirono realmente anche dall'Italia. Io ricordo che avevo due amici che se ne andarono, volevano andare nella legione straniera, avevano 16 anni, che ne so, scapparono un giorno facendo una piccola colletta tra amici, arrivarono in Corsica, li presero e li rimandarono subito a casa, però per anni si fecero belli del fatto che loro tentavano di andare nella legione straniera. Il punto di riferimento era molto basico, avete sentito, una sorta di disprezzo per il sentimentalismo, una sorta di eroismo nella perdizione. Nel mio tascapane non troverete soldi, quindi un disprezzo per tutto ciò che era legato al profitto. L'ho spesi tutti assieme alle puttane, questo romanticismo per l'amore mercenario. Salvai monache e frati dal rogo del ribelle, ma l'ONU se ne frega se brucia la mia pelle. Se la mia pelle brucia è perché sono mercenario, ma il Papa se ne frega e sgrana il suo rosario. Altro punto che ricordo storicamente accertabile, molto evidente in questa ideologia, in questo pensiero che veniva considerato di destra, perché allora la destra era destra perché la sinistra era sinistra. La sinistra era forte, tetragona, inattaccabile nel suo valore e anche nella sua ottusità, come ottusa poteva essere anche la destra. Comunque, vedete, l'ONU se ne frega se brucia la mia pelle. Quindi era un sentimento generale anti-americano, non c'era questa idea, lo Yankee era il nemico di tutti i valori, e anche una sorta di nemmeno tanto velato anticlericalismo. Il Papa sgrana il suo rosario, non sono quelli destra che oggi si battono il petto. Ultimamente mi è capitato di fare un servizio in un luogo di raduno di ragazzi che devono rappresentare le frange più definite della destra. Una loro ragazza rappresentante mi disse: sto facendo un cammino in questo momento, perseguo la castità perché sto facendo un cammino religioso. Ma rimasi, dico: ma scusa, ma chi sei, Santa Maria Goretti o sei la donna del fascio? Fammi capire bene. No, ma cosa dici? Noi in effetti stiamo... E capì che esattamente i valori saranno completamente confusi. Ernesto, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, secondo me il fascista essenzialmente è una persona che contrappone una presunta natura umana all'uomo come essere storico. Cioè, faccia capire, non ho molto bene. Cioè, il fascista essenzialmente fa appello sempre al, come dire, agli istinti più... lui chiama vitali, quelli più aggressivi, quelli più quelli che comunque esistono nell'uomo, che però la civilizzazione in qualche modo ha posto sotto controllo e che ha soggiogato. Quindi c'è una divisione spengleriana fra cultura e civilizzazione. È una contrapposizione tra la natura e la storia. Cioè l'uomo è natura ma è anche storia. Ecco, cioè, ma l'atteggiamento fascistoide invece, che è quello intollerante, è un'altra cosa. No, è quello lì, è esattamente quello, cioè fa appello che cosa? La prepotenza, la forza contro la ragione, contro un principio. Quindi secondo me il fascista, chiamiamolo, si alberga in tante persone, non è tanto connaturato a. Quindi non è più storico. Riconducibile a un riferimento storico, al ventennio, alla liturgia, alla mistica mussoliniana, ma è una visione della vita che ormai si viene definita fascista, laddove c'è intolleranza, incapacità di comprensione e incapacità di definire che possa avere il pensiero dell'umanità una sua evoluzione. No, è colui che guarda sempre addietro, questo. La vita per il fascista è lotta, è aggressività, è soggiogamento del più debole. Questo lo è anche per il manager d'azienda, lo è anche per il venditore di aspirapolvere. Esatto, soltanto che lì è mediata dalla cultura, dalla civilizzazione, quindi dall'utile sociale, in qualche modo dal cercare, come dire, di dare anche gli avanzi a qualcun altro. Il fascista invece impone proprio un discorso quasi militarista. Bene, sentiamo Giuseppe, poi passerò all'ospite che finora è stato silenzioso, volevo dare degli spunti di riflessione. Giuseppe. Allora, io ho 50 anni, ho vissuto la destra del Fronte della Gioventù, dove... Sì, che era già una destra, diciamo, ammorbidita rispetto a quelli che cantavano il mercenario di Lucera. Destra, se mi posso permettere, era una destra intelligente. Sì. Non era una destra bigotta e chiusa, dove noi abbiamo fatto campo Hobbit, che voglio dire, ha visto più di 3.000 ragazzi venire da tutta Italia e incontrarci, suonare, parlare di adesso politica. Cosa, che fine hanno fatto quei ragazzi? Cosa sono diventati? Sono scomparsi tutti. Quindi è giusta la mia premessa che stiamo parlando di un reperto antropologico? Esatto, purtroppo devo dire con... chi dice purtroppo, chi dice per fortuna? Perché si sono persi sia ragazzi di Giuseppe, che ragazzi chi dice di purtroppo, destra. Chi dice per fortuna? Voglio dare una... No, per fortuna, mi dispiace. Sì, ma perché... lei il punto di vista lo rispetto, non dico di no. No, perché i ragazzi noi facevamo politica, ma facevamo politica seriamente. E ma dove siete non finiti? Non era una politica di... Ma dove siete finiti? Servate tanti. Siamo finiti, nel senso siamo finiti. Ma no, come? Finiti. In che maniera? Mi spieghi i rivoli? Perché adesso è impossibile fare politica ideologica. Adesso è impossibile, non c'è un'ideologia. Beh, prima uno può rappresentare se stesso, mica è detto che per forza. Ho capito, però adesso se te ti vuoi presentare alle elezioni comunali o alle circoscrizionali, quello è chiaro. Devi essere assoggettato. Non puoi avere un'idea tua, non puoi dire che mancano i parchi, non puoi dire che c'è... Perché noi 30 anni fa parlavamo di ecologia, perché noi 30 anni fa parlavamo di aprire... Sì, ecco, questo mi dice una cosa giusta, Giuseppe. In effetti, quel tipo di destra ideologica aveva un mondo di riferimenti, anche fantastici, anche mitologici, anche letterali, che poi nel libro di Lanna Rossi è stato descritto in maniera schematica in fascisti immaginari, che è quello che oggi è il mondo corrente, il mondo dei videogame, il mondo del Signore degli Anelli, il mondo della fantasy. Quindi erano culturalmente avanti, mentre i loro avversari si consumavano sui librettini della Feltrinelli, che oggi nemmeno nelle bancarelle si trovano più. Loro coltivavano, dal loro punto di vista, un pensiero che oggi è il pensiero che va nei film, che va nella letteratura giovanile, ma non soltanto giovanile, nel sentire più moderno e più corrente. Domenico Di Tullio, buongiorno. Buongiorno. Domenico Di Tullio, avvocato romano, ha scritto il libro Nessun dolore, romanzo Rizzoli, che è la storia di Casa Pound. Di cosa tratta il tuo libro? Il libro ovviamente racconta una storia ambientata in Casa Pound, nel quartiere che ospita Casa Pound, che è l'Esquilino di Roma, e vuole raccontare lo spirito e lo stile di quella esperienza di vita che è Casa Pound, di quel grande movimento metapolitico che raccoglie, ecco, anche i giovani del blocco io studentesco. Io ti ho fatto ascoltare in silenzio quella che è stata la mia premessa. Oggi è una ricerca di reliquia antropologica, non perché pensiamo che debba essere ripopolata questa idea, però sai, non esistendo più, vorrei capire cosa ne rimane. il signore ha chiamato prima, generazione degli anni 60-70, fatto i campi Hobbit, eravamo tanti, eravamo forti, eravamo puri, eravamo bravi, eravamo ecologisti, guardavamo oltre, ma oggi non ci siamo più. Ecco, dove sono finiti questi ragazzi? In questo centro sociale di destra, che in sé già sembra una contraddizione di termini, che quanti anni fa è stato occupato? Nel 2003, Casa Pound. Ecco, allora tutti occupavano case sfitte e libere e ci facevano i centri sociali. Come nacque dei giovani che hanno detto? Che anno è stata occupata? 2003. Ecco, nel 2003 già era ormai un... non era molto rappresentata storicamente la destra come loro poi l'hanno rappresentata a Casa Pound. Ecco, come è venuto in mente, come è accaduto che dei giovani di destra occupassero un centro sociale che era attività da zecche, da compagni, nel loro punto di vista, totalmente opposta? Allora, innanzitutto avrei molto da dire in ordine a quello che hai raccontato e soprattutto la definizione di destra avvicinata ai giovani di Casa Pound. Rispondo immediatamente alla domanda dell'ex ragazzo dei Campi Hobbit. Molta di quella cultura e di quella sensibilità espressa per la prima volta nei Campi Hobbit, quella apertura al mondo che era una novità per la destra, diciamo così, radicale dell'epoca. Sì, perché finora la destra radicale era nostalgia estrema per fascismo, nazismo e tutte neofascismo bieco e becero, accostato spesso e volentieri e nelle frange ormai proprio bruciate era questa sorta di guerra civile a suon di revolverate, collusioni con malavita organizzata, frange oscurissime anche del potere, che non aveva più nemmeno bisogno di definirsi ideologicamente. E non solo, in questo teatrino di mostri mettiamo anche i politici in doppio petto, i famosi politici in doppio petto che anni erano? Ecco, definiamoli. Erano gli anni 70, gli anni 60, 70 e anche primi anni 80, che da una parte si avvalevano della militanza dei giovani e della, diciamo così, di questi ragazzi che comunque soffrivano e si esponevano nelle strade, dall'altra parte condannavano la violenza e poi chiedevano la pena di morte. No? Si era appena usciti dal periodo dello stragismo, si cominciano ad essere grandi processi per le bande armate, via dicendo. Poi vennero i felici anni 80, gli anni dell'edonismo reganiano, e la destra si identificò in un altro tipo di modello, nell'uomo produttivo, nell'uomo che crede nell'impresa, nell'uomo che persegue una visione, sarebbe detto allora, edonistica dell'esistenza. E calvinista, se mi permetti, io non sono un intellettuale, ma mi diverte l'immagine all'americana, nel senso l'uomo di successo, l'uomo ricco è quello benedetto da Dio. Ma infatti, niente D'Agostino, di lontano, la definizione più esatta di questa eclissi o di questa mutazione fu quella che detto Roberto D'Agostino in Quelli della Notte, la trasmissione di Arbore, che rappresentò uno spartiacque comunque nella sensibilità, nella percezione dello spettacolo, della televisione. Parlava di edonismo reganiano, ti ricordi? L'edonismo reganiano. Assolutamente sì. Che è esattamente quello che ancora oggi in fondo è stato, fino all'arrivo di Obama, il credo, quando dicevano lo zio Bush, il vecchio Bush e via dicendo. La destra italiana viveva in questa sorta di apoteosi per l'americano duro, quello che manda le bombe, quello che stermina il terrorismo e via dicendo. Sì, sì, quello che utilizza le nostre basi per bombardare la Serbia, per esempio, per fare un esempio tornato d'attualità. E ci diciamo dice poi che grazie. L'elezione di Obama ha scombussolato anche questa visione, non hanno più punti di vista, per questo ci troviamo oggi di fronte a una sorta di equivoco, di punto interrogativo. Cercheremo di chiarire tra un istante, dopo le informazioni dalla borsa, appunto. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Addio verdi colline, ormai scende la notte, i fuochi sono spenti, addio dolci mignotte, con le vostre ghippie ho fatto una bandiera, portatela agli amici che invecchiano a lucera. Stiamo questa mattina con gran disprezzo del pericolo, cercando di dare una definizione, perché consideriamo che sia interessante, giusto e corretto informare su dove sia finito quel reperto antropologico, quella reliquia ideologica che una volta si identificava in un certo mondo di riferimenti. Oggi affibbiamo la qualifica di persona di destra, o in maniera ancora più dispregiativa di fascista, a tutta una serie di realtà che poco hanno a che fare con coloro che si meritarono a tutti gli effetti e a pieno titolo questa qualifica. Perché? Perché erano l'ultima ondata lunga, l'ultima sfumata di quella che era l'ideologia del ventennio, con tutte le sue abiezioni, ma anche con tutte le sue spinte vitali, i suoi riferimenti tipo letterario, di tipo poetico, di tipo demagogico, metteteci tutto quello che volete. Sono totalmente libero da ogni paura di sembrare ideologico. Questa mattina sto guardando con grande curiosità. Oggi la destra è tutt'altra cosa, ma molti continuano, quando proprio vogliono farsi un insulto, a dirsi fascista. In realtà io trovo più corretto identificare chi ancora ha qualche nostalgia per questo tipo di mondo, di riferimenti. Sentite, questa è la canzone del Mercenario, che ho detto cantava Pino Caruso, comico poi perfettamente integrato nell'immaginario dell'azienda di Stato democristiana e via dicendo. Quindi non ha nulla a che fare con gagliardetti e teschi tatuati sul petto. È scritta da Pingitore, l'uomo del bagaglino, l'uomo della Marini, l'uomo delle cosce, l'uomo di Pippo Franco, l'uomo di tutto questo tipo di immaginario, che via andato declinando in una sorta di paese delle meraviglie, rappresentato da chi odia a questo punto riferimenti, dalla televisione commerciale, dal berlusconismo e via dicendo. In questo grande putpurri noi stiamo cercando di capire quali sono gli elementi che in realtà erano totalmente alieni a quel punto di vista, che oggi vengono identificati con la stessa dispregiativa qualifica di punto di vista o visione fascista della vita. Se rimanevo a casa, là nella mia lucera, ora sarei arrivato coi figli e la pancera, avrei la moglie grassa, le nate la 600, salotto, televisione, mutua e doppio mento. Guardate che opposizione e antitesi di valori. Innanzitutto, oggi la destra è connotata da una visione forse ipocrita, solo soltanto superficiale, di sessualità finalizzata alla procreazione. Guai se qualcuno dice noi siamo puttanieri, come esprime con senso di mistica commozione il mercenario che sta morendo nel Congo, si stanno spegnendo i fuochi, è morto per gente di cui non gliene frega niente a nessuno, e pensa ai suoi amici che stanno a Lucera, la provincia più oscura dell'Italia, che oggi hanno la moglie grassa, i figli e la pancera, esattamente quello che oggi rappresenta lo status del ben pensante di destra. Se io fossi rimasto a Lucera avrei, guardate bene, la moglie grassa, le rate e la 600, quindi il sogno dell'automobile oggi sarebbe il SUV, le rate, il vivere alla grande al di là delle proprie possibilità, giocando sulle finanziarie, giocando sui prestiti, giocando su una visione della vita che va bruciata e consumata. Salotto, quindi la casa, tutto ciò che rappresenta comunque lo status, la televisione viene già considerata come qualcosa di negativo, di qualcosa che non apparteneva a questa realtà, mentre oggi la televisione è il luogo del possesso, il luogo dell'apparire, la mutua e il doppiamento, quindi una visione impiegatizia, sarei diventato Fantozzi, che ancora Fantozzi non esisteva. Domenico Di Tullio, ci siamo interrotti, autore di Nessun dolore, romanzo Rizzoli dedicato alla storia di Casa Pound. Cerchiamo di capire cosa è accaduto nel mondo della destra, partendo appunto dall'esperienza di Casa Pound, dei ragazzi che, appassionati di musica rock e non certo vicini né a questa destra che abbiamo allucinato, ma nemmeno alla destra del passato, occupano una palazzina e diventano un centro sociale di destra. Chi sono questi ragazzi? Innanzitutto la storia di Casa Pound parte da qualche anno prima, e in particolare da un gruppo umano di ragazzi che segue un gruppo musicale, gli Z0 Alpha. Questi ragazzi si ritrovano al centro di Roma in un pub dietro il Colosseo, sono per quanto riguarda molti di loro, provenienti da un ambito di destra radicale, dalle più varie esperienze, dal Fronte della Gioventù che abbiamo citato, al movimento politico, ad altre realtà extraparlamentari, sono gli eretici, gli anarchici, gli insofferenti e forse anche più romantici, velleitari, ma idealisti, rappresentanti di un mondo da un punto di vista terminale di classe sociale e di topografia proprio urbana. Da dove vengono questi ragazzi? Vengono da tantissimi quartieri di Roma, cioè in realtà il gruppo umano è un gruppo assolutamente eterogeneo. Ci sono i ragazzi di Roma Nord e i ragazzi di Roma Sud insieme, come nella declinazione culturale antropologica, che vuol dire che capisce bene un romano dei quartieri al nord della città più ricchi e benestanti e del sud più proletario. Quindi non c'è operario. Una logica elitaria, non sono i parioli, ecco, no, assolutamente per dire. No, c'è una logica certamente stradaiola, la possiamo definire, c'è una vocazione certamente rock and roll in questo gruppo originario, che di esperienza, di voglia di fare in voglia di fare, dà poi origine alle prime occupazioni della destra a Roma di quegli anni. C'erano state delle piccolissime avvisaglie negli anni precedenti, durate pochi mesi. Invece questo gruppo, che poi diventerà Casa Bound, incomincia occupando uno stabile sulla Tiberina, si chiamerà Casa Montag, in riferimento al Montag protagonista del romanzo di Bradbury, Fahrenheit 451. Quella prima esperienza fuori dalla città, perché è una ex casa del fascio, poi è diventata scuola elementare, successivamente abbandonata, coalizzerà altre forze e determinerà la volontà di tornare a casa. Loro e di però trovare si definivano una casa. Fasci, se dice i fascio dicono sì. Loro si definiscono fasci, loro si definiscono anche fasci, nel senso che esistono sicuramente persone che non si definiscono fasci all'interno dell'esperienza di Casa Pound, cioè c'è anche questa singolarità. La maggior parte di loro sicuramente si definisce fascista del terzo millennio. Ecco, questo neologismo. Qual è il rapporto fisico che hanno con le altre persone? Diciamolo chiaro, no, sembra che diamo una visione all'acqua di rose. Hanno partecipato a scontri, pestaggi, aggressioni, o si sono difesi? Avevano allora, questa sorta di battesimo del fuoco dello scontro di piazza? Io, caro Gianluca, non sono solo un avvocato, ma sono l'avvocato di Casa Pound. Cioè, quindi tu li difendi quando c'hanno casini. Sono un avvocato penalista, seguo Casa Pound e il gruppo umano di Casa Pound da più di 10 anni. Quello che posso dire, seguo anche il diritto di stampa, cioè le querele per diffamazione, le richieste di rettifica e quant'altro ai giornali e all'informazione. Quello che posso dire è che Casa Pound in 10 anni e il gruppo umano di riferimento di Casa Pound in 10 anni non è mai stata indagata, processata, condannata, a maggior ragione, per atti di discriminazione sia sessuale sia religiosa sia politica, per xenofobia e per omofobia. Dopodiché certamente ci sono stati degli episodi nei quali i ragazzi si sono fronteggiati, ci ricordiamo di Piazza Navona, 30 giovanissimi, una trentina di giovanissimi del blocco studentesco che vengono aggrediti da un gruppo, diceva la questura, 400 attivisti di centri sociali. Si sono fronteggiati con i militanti di sinistra, della sinistra radicale, della sinistra più antifascista nel senso becero del termine, perché ricordiamoci che Casa Pound ripudia il pensiero anti, è in positivo, quindi non è anti niente. Si sono affrontati, ma soprattutto il caso di Piazza Navona è emblematico per rimanere, cioè per testimoniare, per avere il loro spazio. Senti, i ragazzi di Piazza Navona, sì, permettimi, fanno una cosa molto particolare rispetto a tutte le strategie di piazza che avevamo visto fino a quel momento attuate dalla destra radicale. La destra radicale, poco contro i molti, che cosa fa? Si unisce a testuggine e carica. È il modo di difendersi che hanno appunto i piccoli gruppi contro i grandi gruppi, sì, disperderli. Cosa fanno i ragazzi a Piazza Navona? Rimangono fermi, aspettano l'assalto, perché vogliono rimanere per difendere il loro diritto a stare in piazza. Questa è la differenza antropologica e ideale che appare evidente. Solo una battuta, visto che devo chiudere e dare la linea alle informazioni del traffico. Esiste un'altra destra, tu hai definito una visione tua, perché sei anche il loro avvocato, non è giusto che ne parli in questi termini, ma la destra borgatara, il coatto, ma detto non in termine dispregiativo, in termine come rappresentativo di una realtà marginale periferica, che noi abbiamo sempre considerato comunque persona di sinistra dalle letture pasoliniane in poi, oggi cosa è diventato? Allora, il coatto romano, la periferia romana non è più a sinistra, questo è un dato di fatto che ormai è un dato storico, perché insomma sono anni che non è più così, ormai dai primi anni 90, da quando l'informazione creò il fantomatico pericolo nazischini in Italia, adesso il borgataro si riconosce in un altro modello forte, sprezzante, pericoloso e idealizzato al contrario, demonizzato dai giornali, che è il nazischin rasato con il famoso nazischin con la svastica rasata sulla testa, e che insomma è mostruoso e becero, intollerante e quanto più negativo possibile. Quello che se ti incontra per strada, quello che se ti incontra per strada, gli attraversi per strada, ti va di capoccia, ti va di capoccia. Poi se quello che per esempio fa gli assalti ai bengalesi, per poi scoprire invece che, fatto storico, chi li fece al Pigneto per altri motivi, tra l'altro, che rispetto a quelli razziali, aveva un Che Guevara tatuato sul braccio. E questo è anche un po'... Fermiamoci solo un istante, perché dobbiamo dare con urgenza le informazioni al traffico. 800 24 00 24, farebbe piacere chiamasse qualcuno anche per confutare, controbattere, dire la sua versione rispetto a quello che stiamo dicendo noi. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ti senti solo su questa strada e pensi al sogno che avevi un tempo. Tanto peso, tanto dolore, tra il bianco e il nero di una stagione. Ti senti solo su questa strada, ti hanno cacciato, ti hanno tradito, ti hanno giuriato e calpestato e dato un pasto all'assassino. 800 24 00 24, stiamo portando in superficie, ma non perché se ne voglia fare apologia, ma semplicemente perché ci serve di mettere in evidenza tutte le tessere mancanti rispetto a una visione interessante, completa, variegata della realtà. Il pensiero di destra, il fascista, dove è finito? Oggi tutti sono fascisti, ogni cattivo è fascista, ogni picchiatore è fascista, ogni intollerante è fascista, ogni sopraffattore è fascista, ma quelli che in realtà ancora tengono un testimone ideologico, anche se diversificato, cambiato, mutato, di una linea interrotta di pensiero, sono quelli che sono meno visibili. Abbiamo in studio questa mattina Domenico Di Tullio, autore di un romanzo che parla dell'esperienza di Casa Pound, il centro sociale di destra, che è una realtà romana conosciuta a livello romano, un po' meno conosciuta fuori. Il romanzo si chiama Nessun Dolore, editore Rizzoli. Di Tullio, ci eravamo interrotti, poi adesso abbiamo un po' telefonate, quindi terminiamo il discorso sulla ponderazione, sulla classificazione antropologica del coatto. Il coatto, che è la persona che fa un po' paura a tutti noi, fa paura perché sono quelli che il sabato sera devi stare attento se li incroci e se alzi lo sguardo ti vanno di capoccia, appunto. Sono quelli che poi vanno magari in giro a picchiare gli omosessuali nei centri in cui si riuniscono, danno idee violente, non sono mai persone che hanno i segni dell'emarginazione addosso, sono sempre ben vestiti, hanno discrete automobili, però hanno una gran voglia di menare le mani. Quanto questi sono fascisti e quanto hanno a che fare con Casa Pound? Innanzitutto direi che Casa Pound, nei confronti del tipo antropologico che hai appena delineato, è assolutamente lontana e estranea, anzi sulla strada fa da freno a questa deriva comportamentale. Il coatto è il prodotto del mondo di oggi. È il prodotto di un mondo nella quale diciamo così, espressione culturale più grande privilegia il ricco, il ben vestito. Quindi ti sintetizzo, il punto d'arrivo ideale del quarto è il tronista. Non è la rivoluzione, il non troni, assolutamente, è il tronista. Assolutamente. Il punto d'arrivo invece dei ragazzi di Casa Pound è la rivoluzione. Ancora pensano alla rivoluzione. Sì. O almeno una rivoluzione ideale. Diciamo che così, tronista ci si arriva se si passa per le varie forche caudine che ben conosciamo, che abbiamo letto la cronaca. La rivoluzione sembra un pochino più difficile, un mondo in cui non vuole essere rivoluzionato. Alessio, buongiorno. Pronto, buongiorno Gianluca. Eccomi qua. Sì, salve. No, mi sembra che comunque si è dipinto un quadro un po' troppo idilliaco. Insomma, io anche vivo a Roma e non esiste soltanto la realtà di Casa Pound. Ma l'abbiamo detto, mica abbiamo detto esiste solo quella. Abbiamo detto fra le tante realtà che definiamo vagamente fascista, secondo noi quelli che ancora portano ideologicamente come comportamento qualcosa che ha a che fare comunque con quello sono come questi. Eredità. Come eredità sono loro. Beh, comunque, insomma, vivendo a Roma e girando per Roma, come in altre città d'Italia, senza nessun pregiudizio ideologico, comunque si vedono diverse sfaccettature di personaggi che si autodefiniscono fasci. Certo. Diciamo che, ci sono quelli ancora che vanno in giro, che anche che lavorano in attività commerciali, che sfoggiano con orgoglio le loro celtiche come capelli. Sì, ma guarda, ti posso dire una cosa. Sì. Immagina quel famoso filmato con Lele Mora che fa vedere il suo telefonino con i discorsi del Duce. Ecco, Lele Mora è il rappresentante, senza nulla di, io non do mai giudizi, però loro sono rappresentati da Lele Mora, da un impresario di subrette e di tronisti, e questo è il loro punto di riferimento, un'altra cosa. Alessandro. Sì, pronto, buongiorno. Eccomi. Eccoci, allora niente, io volevo dare solamente il mio punto di vista personalissimo dopo tutto quello che si è detto, nel senso che ci possono essere tante, tante realtà. La mia realtà personale è quella di una persona fascista, tu sei un fascio, sì. Sono fascista più che fascio, mi piace di più. E non appartengo né alla sinistra né alla destra, perché storicamente il fascismo, essendo un regime totalitario, non apparteneva né a una direzione né all'altra. E, però ecco, mi discosto da quello che disse il primo ascoltatore, dove il fascista viene idealizzato come colui che è violento, che è intollerante o altro. Io personalmente esercito la professione di avvocato, sono fascista, non appartengo alla piazza, ma appartengo. Vabbè, questo è chiaro, dico almeno io apprezzo la trasparenza, non dice lo sono, chi ha comportamenti che rispecchiano tutto l'aspetto deleterio del fascismo però sta nascosto, si inginocchia, si mette mille simboli addosso, è molto più spregevole chi dice io sono fascista. Mario Dinolfi, buongiorno. Sono in diretta. Sì, sei in diretta, Mario Dinolfi. Pronto, eccomi. Eccomi qua, definisciti te, perché questa mattina io sono per definizioni precise. Tu cosa sei? Ma io sono un democratico, ecco, insomma, la definirei così, c'è una dicotomia. Tu sei stato candidato alle primarie del Partito Democratico, sì, in questo senso. Sì, esattamente. Sei di sinistra, sei di destra, di centro? Ma non mi definirei una persona di sinistra, mi riconosco nell'idea anglosassone del Partito Democratico. Però vedi che è difficile, Mario, dare delle definizioni. Il fascio l'ha chiamato prima, anzi il fascista, ha detto io sono fascista, fine, definito, già lo inquadro. Oggi vedi, anche tu hai difficoltà di cosa sei. In questa difficoltà generale, definizione, secondo me, la definizione di reliquia antropologica è importante, perché così almeno rifai le giuste e corrette differenze fra i modi di essere, di comportarsi e le appartenenze dichiarate. Su dimmi, questo Mario. Non sono molto d'accordo. Secondo me il fascismo ha una definizione molto precisa. Ha una definizione storica, certo. Precisa. Chiaro, questo l'abbiamo detto. È anche una definizione applicata all'oggi piuttosto precisa. E cos'è? Dillo in due battute. Dillo in due battute il tuo punto di vista. Il fascismo è una posizione antidemocratica, quindi che non crede alla democrazia, è una posizione Beh, lo era anche il comunismo, questo però. Anche il comunismo, certamente, assolutamente sì. Con una differenza importante che riguarda il rapporto con lo straniero, con l'altro. Va bene, allora per Mario Dinolfi mi sembra chiaro, non per censurarti perché la sigla mi sta strappando e poi mi multano a me pesantemente. Ritorna all'idea basica del fascista, racchiuso in tutti dei comportamenti che ormai sono antistorici, di intolleranza, di incapacità di vivere la contemporaneità. Ma proprio quello che noi stiamo facendo questa mattina è definire quelli che, non stando in questi comportamenti, hanno ancora un portato ideologico diverso, ma stanno nascosti, stanno sulle palle a tutti. E quindi questa mattina l'abbiamo semplicemente fatto baluginare la loro esistenza. A domani. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés.